Chi sono i nuovi tifosi russi che abbiamo visto in azione in Francia in questi giorni a Marsiglia e poi a Lille? Le tifoserie ultrarusse nascono negli anni 70-80, su, diciamo, imitazione di quelle che sono le tifoserie inglesi, di cui mutuano gli atteggiamenti, l'abbigliamento, i modi di comportarsi, i modi di fare le azioni, per le quali nutrono rispetto e venerazione. E non, infatti, le tifoserie organizzate russe hanno tutti nomi inglesi, allo stadio espongono striscioni inglesi e utilizzano terminologia inglese anche per le loro azioni. Le cose iniziano a cambiare all'inizio degli anni 90 con la dissoluzione delle repubbliche sovietiche e con una nuova generazione che sale al potere anche nelle curve e negli stadi. Queste nuove generazioni, nello sfacelo totale che è la Russia post-sovietica, iniziano a entrare in contatto con i gruppi della criminalità organizzata, con i partiti politici minoritari, soprattutto ultranazionalisti e di destra. Ecco che allora inizia a mutare anche il tipo di comportamento che hanno questi tifosi. Non si segue più l'ideologia ultra del controllo del territorio, del controllo dello stadio e della rivalità calcistica, ma queste persone iniziano ad essere utilizzate dentro e fuori gli stadi anche per azioni che nulla hanno a che fare con il calcio, ma hanno a che fare appunto o con la criminalità o con azioni politiche. Contestualmente, per tutto il discorso della Thatcher, dell'esclusione dalle coppe europee, dell'arrivo della Premier League con l'innalzamento dei prezzi, la televisione, tutto quanto, diminuisce fino a quasi scomparire, se non in poche occasioni che vediamo poco, il fenomeno dell'hooliganismo inglese. Ecco che allora quello che era prima un rispetto nei confronti del movimento ultra e della tifoseria inglese inizia a diventare un'occasione di rivincita, un'occasione di supremazia, e in Russia si vuole proprio prendere lo scettro della tifoseria più conosciuta, della tifoseria più importante, della tifoseria più rispettata e temuta. Cambiano ancora i tempi e sono ormai una decina d'anni almeno, le nuove generazioni di tifosi russi non sono proprio neanche più tifosi, non si riconoscono nemmeno loro nella definizione di tifoso o di ultras, ma si considerano loro stessi dei fighters, dei combattenti. Lo stadio diventa quindi palestra di ardimento per fare azioni, come possono esserlo i boschi, come possono esserlo le steppe innevate, come possono esserlo i parcheggi degli ipermercati. Le azioni diventano a sfondo principalmente politico, etnico e religioso. A questo punto abbiamo sempre meno scontri tra squadre di calcio rivali e sempre più spesso abbiamo unioni tra squadre di calcio rivali che si mettono insieme per scontri appunto di tipo etnico-politico. Uno su tutti, famoso e paradigmatico, quando nel 2010, a seguito dell'accoltellamento di un tifoso dello Spartak Mosca, i tifosi dello Spartak Mosca, insieme alle altre tifoserie suppostamente rivali delle squadre moscovite, mettono a ferro e a fuoco la città. Iniziano a fare agguati di stampo etnico e religioso e quindi nulla più a che vedere con il calcio. Queste nuove formazioni di fighter sono ovviamente ultra-ortodossi, cristiani ultra-ortodossi, sono nazionalisti, sono neonazisti, sono omofobi. Queste stesse squadracce le vediamo in azione. Quando cercano di fare i gay pride, se non li vietano, quando cercano di fare manifestazioni del genere in Russia, subito ecco che arrivano gli ultra, quelli dello Zenit San Pietroburgo addirittura fecero un manifesto contro le persone di colore, contro gli omosessuali, contro tutto quanto, in quanto non potevano più entrare allo stadio a tifare lo Zenit di San Pietroburgo. Quindi quelli che noi vediamo in in azione adesso in Francia, che sono gli stessi che abbiamo visto nel 2012 negli scontri con la Polonia, sono queste nuove generazioni di fighters, che sono ragazzi spesso straight edge, che non fumano, che non bevono, che si addestrano nelle arti marziali russe come la vecchia lotta del sistema, che sono lotte collettive a mani nude, e infatti le abbiamo visto anche per come erano vestiti, come si muovevano e come combattevano, e cercano una supremazia nei confronti degli inglesi e cercano anche una supremazia proprio a livello etnico e politico come ultranazionalisti. Quando arrivano a Marsiglia attaccano gli inglesi perché c'è la partita Inghilterra-Russia, e vediamo appunto che ci sono lì questa specie di Russia Unite, quindi ci sono e vengono riconosciuti esponenti di tutte le maggiori squadre moscovite, di San Pietroburgo, di anche altre squadre di altri paesini, i quali c'è una manovalanza più giovane, che è una manovalanza che si è fatta magari il Donbass e la Crimea, e c'è anche una dei vecchi arnesi 40-50 anni che sono ex paramilitari che si sono fatti anche proprio alla Cecenia, che hanno legami con i partiti ultranazionalisti e neonazisti, uno di questi in particolare che era lì con un accredito ufficiale della Federcalcio russa e che fa anche il portavoce di un deputato, Ledbev, che è quello che poi su Twitter ha detto che avevano fatto bene a fare gli scontri. Quando stanno a Marsiglia si alleano appunto su basi puramente politiche con esponenti della Boulogne, un vecchio gruppo di ultradestra del Paris Saint-Germain oramai dissolto, e attaccano gli inglesi in questo senso. Infatti gli attacchi fatti invece da i tifosi dell'Olympique Marsiglia, che sono di sinistra, con una tifoseria multietnica, sono completamente diversi, avvengono la notte, sono altri tipi di azioni, e avvengono più che altro per due motivi: in ricordo dei vecchi scontri del 98, quando ci fu la grande battaglia, diciamo, tra tunisini e inglesi ai mondiali del 98, e anche perché gli inglesi arrivano e iniziano a urlare: spazzeremo via l'ISIS, ripuliremo Marsiglia dall'ISIS, quindi anche loro con la loro buona dose di razzismo. Succede anche, e qui è interessante da vedere, che la polizia a questi tifosi inglesi che avrebbero giocato la partita successiva a Lens, gli dicono di, dopo che sono successi gli scontri, gli dicono di non andare a Lens perché non c'è spazio per contenerli tutti, ma di andare a Lille. Il problema è che a Lille si giocava la partita della Russia, ed ecco quindi perché 3 giorni dopo ci sono nuovi scontri a Lille tra tifosi russi e tifosi inglesi. Qui è interessante vedere il comportamento della polizia, perché se da un certo punto di vista in Francia non è più possibile fare nulla, non è più possibile protestare per questo stato di eccezione permanente che è stato messo nella Costituzione e che è funzionale appunto alla repressione, lo vediamo nelle lotte e nelle manifestazioni contro l'Oitavail, la violentissima repressione poliziesca che c'è, abbiamo visto l'altro giorno le foto di questo ragazzo con una granata che gli ha praticamente sfondato la nuca. Però la stessa polizia allertata ci hanno raccontato che sarebbe stata pronta a qualsiasi tipo di attentato terroristico, e l'ISIS e Bin Laden e Saddam Hussein e così via. In realtà si trova stranamente completamente impreparata davanti agli scontri tra queste tifoserie, quando era ovvio che sarebbero successi prima di Inghilterra-Russia, quando era scontato che mandando i tifosi inglesi a Lille, dove ci sono quelli russi, ci sarebbero stati altri scontri. E allora viene da chiedersi, visto che nello stato di nell'état d'urgence ogni tipo di casino che succede per strada è funzionale a un'ulteriore repressione, e visto la repressione che viene fatta politicamente dei lavoratori e degli studenti che protestano in questi mesi in Francia, come mai, nonostante fossero conosciuti, nonostante fossero schedati, nonostante si sapesse che sarebbero arrivati, vengono fatti convogliare prima a Marsiglia e poi a Lille, e poi ci si stupisce anche di quello che succede.